2024 di Enrico Pagliarini. Anche questa settimana ci sono stati parecchi annunci, non cose eclatanti, notizie potremmo dire marginali, ma tutte che vanno in una direzione, quella dell'auto elettrica. Quindi il futuro dell'automobile non è solo connesso e sempre più automatica, autonoma, ma sarà sempre più elettrica e diciamo che quasi tutti i produttori sostengono e ritengono, o comunque senza dirlo lo mostrano nei loro piani, che l'inizio dell'era dell'auto elettrica, che potremmo già definire iniziato con Tesla o con alcuni segnali di altri produttori, ma il mercato diventerà interessante a partire dal 2020-2022. Alcuni annunci riguardano veicoli di fascia altissima, stiamo parlando di progetti che nascono tra gli Stati Uniti e la Cina, e alcuni modelli verranno presentati al prossimo Consumer Electronics Show di Las Vegas all'inizio del prossimo anno. Ma invece c'è una notizia molto importante e anzi direi drammatica e preoccupante, perché se mai ce ne fosse bisogno, l'attacco annunciato da Yahoo questa settimana riporta in primo piano il tema della sicurezza digitale. Per chi si fosse perso la notizia, Yahoo ha ammesso di aver subito una violazione che avrebbe messo a rischio i dati sensibili, pensate, di 1 miliardo di utenti nel mondo. Questo attacco risale all'agosto 2013 ed è il secondo di queste dimensioni, dopo quello del 2014, che ha colpito 500 milioni di account. Poi bisognerebbe vedere se questi 500 milioni si accavalano ad alcuni del miliardo, comunque insomma stiamo parlando di cifre molto importanti. Sicuramente una delle prime cose da fare sarebbe cambiare la propria password di accesso all'account di Yahoo, soprattutto se usate la stessa password per più servizi, e non bisognerebbe farlo, ma si fa, molti lo fanno, quasi tutti, però non bisognerebbe avere la stessa password per più di 2, 3, 4, comunque per molti servizi, bisognerebbe avere password diverse o comunque avere password complesse aggiornate molto spesso. In questo caso, se uno ha un account Yahoo, è fortemente consigliato l'aggiornamento o cambiare la password. Questo è un tema molto importante, perché se stiamo pensando ad un mondo dove sempre più cose saranno connesse, sempre più oggetti a partire dalle automobili, ma se parliamo di Internet of Things, di Internet degli oggetti, beh, tutti questi oggetti dovrebbero avere una sicurezza intrinseca, cosa che al momento ancora non c'è, soprattutto negli oggetti di poco valore, quelli legati alla sensoristica. C'è ancora molta poca attenzione al tema della sicurezza, per non parlare di tutto il tema di fabbrica 4.0, di manifattura 4.0. Beh, l'impegno e l'attenzione verso la sicurezza dovrebbe essere massimo e molto importante. Invece, da questo punto di vista, c'è ancora molto poco, anche se se ne discute, se ci sono player che stanno cercando soluzioni in questa direzione. A chi risponde, vabbè, io non ho un account Yahoo, chi se ne frega? Beh, no, perché una volta capita quell'azienda, un'altra volta potrebbe capitare ad un'altra azienda. Tutti sono sotto scacco e sotto attacco. Potremmo discutere anche della evoluzione che c'è stata negli ultimi tempi a livello nazionale. Se seguite le notizie soprattutto degli Stati Uniti, ci sono accuse di una vera e propria guerra informatica, una cyberguerra della Russia nei confronti degli Stati Uniti, ma anche di altri stati, e questo è un altro aspetto drammatico di questa evoluzione. Dunque, alcune notizie in breve della settimana che abbiamo selezionato nelle nostre Digital News. Digital News. I prossimi 4 satelliti della costellazione Galileo verranno lanciati non prima del prossimo agosto, e il sistema di posizionamento satellitare europeo sarà completamente operativo dal 2020. Ma questa settimana, e la notizia è storica, per la prima volta i segnali dei primi 18 satelliti Galileo che orbitano già attorno alla Terra possono essere ricevuti da tutti. Quindi l'Unione Europea ha deciso di aprire il segnale e tutti possono riceverlo. Ho già parlato con alcune persone, ad esempio Roberto Pezzali, che lavora alla redazione di dday.it, si è già divertito questa settimana a fare prove con alcuni smartphone che già ricevono i segnali di Galileo e si vedono proprio alcuni satelliti. Però questo è utile soprattutto per le aziende che nei prossimi 3 anni cominceranno a fare test con il nuovo sistema, ma anche per i cittadini che possono già sfruttare alcuni terminali che vedono i satelliti GPS. Uno non se ne accorge, ma questi primi segnali, che sono ancora segnali deboli, sono ancora segnali non precisi come quelli che ci saranno a partire dal 2020 in poi, però sicuramente servono a migliorare il posizionamento. In futuro questo servizio, il servizio Galileo, farà sì che la posizione che noi rileviamo con il nostro smartphone o con altri strumenti sarà molto precisa, estremamente accurata. Parliamo di pochi centimetri, una decina di centimetri. Digital News. Molto interessante l'annuncio fatto da Synaptics, che è una delle principali aziende di produzione di sensori per i sistemi di puntamento o l'identificazione. Ad esempio, il trackpad dei computer portatili, quelli che utilizziamo al posto del mouse, è prodotto da Synaptics, cioè diciamo, molti sono prodotti da Synaptics. Allora, questa azienda, che è famosa nel settore poco ai consumatori finali, ha appena annunciato l'arrivo per la seconda metà del 2017 di un sensore di impronte digitali a lettura ottica che può essere montato sotto al vetro di uno smartphone. E questa è la novità, quindi via libera all'eliminazione di tutti i tasti e soprattutto al tasto Home, che sia su iOS di Apple sia su Android in molti casi serve per anche rilevare l'impronta digitale. Quindi sotto allo schermo, pensate ad esempio che cosa si può fare a livello di design. Digital News. C'è un grosso dibattito sulle notizie false che vengono diffuse via social network con il noto effetto moltiplicatore. Allora, Facebook ha promesso ufficialmente di impegnarsi e di usare un mix di tecnologia e sensibilità umana. Facebook collaborerà con società specializzate, alcune di queste sono fatte da giornalisti, società che sono specializzate nella verifica dei fatti, e alcune notizie potrebbero venire bollate come poco attendibili e gli utenti verranno avvisati, poi ognuno deciderà se condividere o no la notizia. Comunque ci sarà questo messaggio, molti dettagli di come verrà strutturata questo iter non sono ancora noti, non si sa né che tecnologie verranno utilizzate né poi quale sarà il risultato. Difficile saperlo, uno dovrebbe controllare quello che accade sugli schermi del miliardo e mezzo e oltre di utenti di Facebook. Questo tema delle notizie false è un tema molto importante che si lega alla libertà d'espressione in rete, perché ovviamente è chiaro a tutti l'effetto devastante della moltiplicazione, della condivisione di una notizia falsa o comunque molto poco attendibile o non completamente falsa, ma è anche chiaro che se si affida ai social network il compito di vigilare e non si è sicuri della qualità della verifica, l'effetto che si ottiene è la censura, e quindi questo è sicuramente un equilibrio molto molto difficile, molto complesso. E poi non riguarda solo Facebook, ovviamente Facebook ha un ruolo vista la dimensione e il numero di utenti che sono sulla piattaforma, ma questo vale in generale per tutte le piattaforme che si sono imposte e dove vengono condivisi contenuti, dove ci sono dibattiti. Dunque, a proposito di notizie, è una notizia di una riga, quindi non l'ho inserita nelle Digital News, ma la dico perché si era parlato del ritardo con cui Apple aveva distribuito gli AirPods e questa settimana sono invece stati annunciati come disponibili anche nel nostro paese. Sono un prodotto molto innovativo, queste cuffiette Bluetooth che si collegano con iPhone 7 e sulle quali Apple ha basato un po' il futuro della connessione delle cuffie, visto che ha eliminato il jack audio e o uno usa Lightning o altro su altri prodotti, su Android ad esempio altro tipo di connessione, oppure il futuro, così come suggerisce Apple o anche altri produttori, sarà senza fili, tutto Bluetooth. Ci sono due notizie che riguardano il mondo del video online, il video on demand, in streaming su internet, e di questo ho parlato con Gianfranco Giardini, il direttore del magazine digitale dday.it, che sono andato a trovare nei laboratori dove normalmente vengono provati molti prodotti, non ultimi anche i televisori, che sempre più sono connessi alla rete internet e sui quali si possono vedere contenuti in streaming da internet. Beh, riguardano entrambe il video, il mondo dell'entertainment. La prima è Amazon Video, che esiste, o Prime Video a seconda delle denominazioni, che esiste già negli Stati Uniti e da qualche giorno esiste nei 200 paesi al mondo, quindi diciamo praticamente dappertutto, o dappertutto ci sia una copertura internet. È un'estensione, in Italia quantomeno, dei privilegi che si hanno essendo iscritti al programma Prime di Amazon, ed è un servizio di video, di streaming video, chiamati quelli SVOD, cioè Subscription Video On Demand, quindi una volta che si è abbonati si possono vedere tutti i contenuti che sono sulla piattaforma. Ovviamente in questo caso non c'è un sovrapprezzo, almeno per il momento, poi potrebbe cambiare la strategia, basta essere iscritti al programma Prime, che è quello al quale normalmente gli utenti si iscrivono semplicemente per avere qualche privilegio, per esempio sulle spese o i tempi di consegna negli acquisti su Amazon. Comunque è un servizio alla Netflix o alla Infinity, se guardiamo a un servizio italiano, giusto? Funziona praticamente allo stesso modo, con un pochino di differenze, in peggio devo dire, che sono il numero di device gestiti, che sono al momento più bassi, perché si parla ovviamente degli smartphone nelle piattaforme principali, iOS e Android, e poco più. I computer ovviamente anche, e poi è in peggio anche per quanto riguarda il catalogo, che in questo momento è molto limitato, sono circa 250 titoli, poco più, di cui una parte anche con audio in italiano, alcuni con sottotitoli e altri soltanto in inglese, un solo titolo che peraltro è quello di punta in 4K, che è The Grand Tour. The Grand Tour è la nuova trasmissione della tripletta di presentatori, già autori e presentatori di Top Gear della BBC. Quando hanno smesso, hanno litigato con la BBC, hanno fatto quest'altra contenuto, quest'altra trasmissione, praticamente solo in esclusiva per Amazon. Era limitata appunto agli Stati Uniti la disponibilità di questo contenuto, da adesso si può vedere anche in Italia. La versione però in 4K è soltanto in lingua inglese, mentre quella Full HD si può vedere anche in italiano. L'altra novità, sempre parlando di video on demand che si vede tramite internet, riguarda Vodafone, quindi un player completamente diverso, un operatore telefonico. Sì, qui ancora non ne sappiamo molto, ma i nostri sensori sul mercato ci hanno già rivelato che entro pochissimi giorni, forse pochissime ore, comparirà questa offerta Vodafone TV. È un'offerta in questo caso dove Vodafone non vuole essere proprio un produttore di contenuti, quanto un aggregatore di contenuti di offerte terze. Sicuramente ci saranno tutti i film di Chili disponibili, sicuramente ci sarà un'offerta legata a Now TV, quindi alla TV diciamo in streaming di Sky, con alcuni canali Sky lineari disponibili e molte trasmissioni di Sky disponibili poi in video on demand. Pare che questo sia un oggetto anche hardware da collegare al TV, quindi una station, questa Vodafone TV, e ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma di certo segna questo trend oramai inarrestabile da parte delle telco di voler entrare nel mondo dei contenuti, e un po' è anche diciamo, il sottotesto che c'è in tutta la vicenda Vivendi Mediaset. Di fatto è sempre la stessa tendenza di aggregazione di telco. Vivendi è il principale azionista di Telecom Italia in questo momento, che sta scalando appunto Mediaset. Le telco vogliono avere un ruolo nel mondo dell'entertainment. Se poi questo abbia veramente un senso o no, magari bisognerebbe interrogarsi, ma a parte, diciamo. Certo, visto che hai citato Telecom, ricordiamo che Telecom già da tempo ha Team Vision, che è un'offerta appunto che aggrega vari contenuti, e comunque noi ne parliamo perché ovviamente l'annuncio di Amazon è importante, ma stiamo osservando una, la chiamiamo accelerazione verso questa direzione, che forse ci dice, ci indica che non solo per l'Italia, ma per gran parte dei paesi europei e del resto del mondo, il video on demand tramite internet diventa sempre più una realtà e si va a scontrare con il mondo al quale noi siamo ancora oggi abituati, che è quello del broadcast classico via satellite, se vogliamo, grande qualità e grande offerta, e anche digitale terrestre un po' in tutto il mondo. Sono due tendenze che si sommano, potenziandosi quindi. Una è quella della indubbio maggiore diffusione della banda larga. Quindi c'è un po' più di banda larga, ce n'è sempre più nelle principali città, sta arrivando addirittura la banda a un gigabit, quindi la fibra a un gigabit, e quindi incominciamo a vedere, anche se sappiamo che in alcune zone periferiche di provincia purtroppo quello che diciamo non è vero, ma comunque sta crescendo. Certo, comunque è indubbio che il mercato si è ampliato. A questa tendenza si somma la voglia sempre maggiore degli spettatori di fruire dei contenuti non solo, ma anche in mobilità e anche sugli device come gli smartphone, dove la TV tradizionale non arriva. Quindi tutti i tentativi del DVB-H, quindi di trasmettere con tecnologie televisive tradizionali sui device, sono fallite un decennio fa, direi, e quindi oramai la trasmissione è IP, quindi bisogna essere per forza necessariamente sulla rete se si vuole agganciare anche quell'utenza. Il modello migliore, parlo dal punto di vista dell'utente, è quello dove io incomincio a vedere un programma a casa, proseguo nel commuting verso l'ufficio, quindi magari su una metropolitana, sul tram, sul mio device, poi su un autobus, perché il mondo è pieno di autobus e metropolitane e tram sono meno frequenti, e poi per esempio riprendo la sera a casa sul tablet. Ecco. E questo prevede ovviamente che l'offerta IP sia in questo momento, dal punto di vista dell'usabilità, vincente, o quantomeno dovrebbe esserci delle forme assolutamente ibride. Però l'IP puro, dove c'è banda, è vincente, anche perché, come abbiamo qualsiasi, per esempio, utente Netflix ha già sperimentato, c'è un canale di ritorno, quindi Netflix capisce dove ho interrotto la visione, e qualsiasi device io prenda successivamente mi fa ripartire la visione da dove l'ho interrotta, quindi il massimo della comodità. Questo in una versione ibrida TV tradizionale device, quindi IP, non si può fare, o si può fare con molte più difficoltà. Certo, per non citare poi tutte le analisi dei dati che vengono fatte su quello che io vedo, e quindi permettono queste analisi di capire che cosa mi piace, quindi darmi maggiore offerta. Comunque ad oggi questi servizi non offrono pubblicità, però potrebbero anche in futuro offrire dei messaggi pubblicitari molto mirati, molto particolari, cuciti su misura. Da un certo punto di vista, Gianfranco, è tutto ciò anche più semplice, cioè il mondo broadcast dovrebbe essere più semplice, ma ultimamente, adesso senza entrare in particolari tecnici di cui abbiamo parlato varie volte 2024, ma il mondo del broadcast si sta complicando la vita a proposito di tecnologie, e invece quasi quasi è più semplice ormai trasmettere via internet. Quello sì, soprattutto è più facile allestire un'offerta, come ha fatto Amazon, per esempio, inizialmente non particolarmente importante e strutturata, con costi tutto sommato contenuti. Cioè fare broadcast significa fare degli investimenti iniziali enormi per avere i punti radio, le antenne, gli impianti di trasmissione, piuttosto che trasponder su satellite, che sono un costo fisso, anche se ho zero abbonati. Invece l'IP permette una scalabilità maggiore, perché non ho praticamente grossi costi fissi iniziali, e incomincio ad avere costi man mano che ho abbonati, quindi man mano che consumo banda dalla CDN sulla quale sono ospitati i contenuti. Quindi tutto sommato permette una scalabilità maggiore. Sul discorso che facevamo invece sulla capacità di conoscere meglio il cliente e di quindi anche dargli dei suggerimenti più corretti sui propri gusti, che per esempio Netflix fa molto bene, questo pone l'accento su un aspetto che a mio avviso è fondamentale, che è l'aspetto editoriale. Cioè non basta essere una telco perché dice ho i clienti, ho il billing, cioè ho la bolletta che arriva tutti i mesi, quindi in qualche modo ho già il rapporto col cliente, gli do anche il video e siamo tutti contenti. La storia ha dimostrato che offerte di questo tipo, che peraltro ci sono, non sono state dirompenti, non hanno cambiato il mercato. Poi arriva una Netflix che non ha rapporti con nessun cliente, che non ha bollette, che non ha linee telefoniche, non ha più neanche i server perché si appoggia, guarda caso, alle CDN di Amazon, esatto, stessa. Quindi non ha nulla, e di colpo colpisce nel segno. Perché colpisce nel segno? Perché ha dei contenuti che fanno la differenza, e ne fa un approccio dal punto di vista tecnico, perché i client funziona molto bene, e poi editoriale molto interessante, fatto molto bene. Ecco, quello che forse le telco dovrebbero ragionare di più in questo momento, e in qualche modo anche Amazon, che ha qualche pecca da questo punto di vista, è la proposizione editoriale dei propri contenuti, e anche quella tecnica sul client che deve risolvere i problemi. Vero è, come dicevamo, che la gente vuole andare verso le cose più semplici, vero è anche che il pubblico sta cambiando e molti utenti, soprattutto i più giovani, hanno più dimestichezza con uno smartphone e con un'app piuttosto che con un TV con l'ingresso HDMI 1, 2, eccetera, eccetera. Quindi anche l'utenza sta cambiando, però poi l'app deve funzionare bene. Se l'app funziona male, non è chiara, è come Amazon Video in questo momento, ha solo l'interfaccia in inglese e non in italiano, beh, diciamo che ancora c'è del lavoro da fare. Se guardiamo a questa evoluzione in prospettiva, non di 1, 2, 3, ma 5, 7 anni, insomma, un medio periodo, spazio per il broadcast, quindi per la TV, chiamiamola tra virgolette tradizionale, tu ne vedi o dobbiamo abituarci ad un futuro quasi completamente online, su internet, on demand? Allora, da un punto di vista prettamente ingegneristico, fare broadcast sulla rete è uno spreco di risorse. Cioè, quando c'è da vedere la partita di calcio in diretta, il satellite, innanzitutto, anche il digitale terrestre, perché no, è molto più efficiente, e soprattutto il contenuto arriva precisamente nel momento, non ci sono ritardi, non c'è buffering, quindi la partita va vista in diretta. Quindi i grandi eventi in diretta continueranno a essere sui canali televisivi tradizionali, per chi ha ovviamente un TV a portata di mano in quel momento, gli altri tranquillamente potranno vederlo in IP. Cosa completamente diversa per la grande pancia dell'intrattenimento, quello di tutti i giorni, e quindi i serial, i film, ecco, quelli saranno sempre più on demand, perché il fatto che il film vada in onda alle ore 20 del lunedì o 21 è una, come dire, un vincolo, una scomodità, è un vincolo dettato soltanto dal fatto che esiste il broadcast, ma il film inizia quando voglio io. Non deve iniziare perché non è in diretta, quindi il discrimine grosso sono eventi in diretta e eventi in differita. Per la differita vincerà il video on demand, per la diretta il broadcast ha ancora un ruolo. E così, per esempio, proprio perché parlavamo di diretta e di differita, per il calcio, per esempio, il broadcast e le PTV broadcast continueranno ad avere un ruolo importante, sempre con una certa aliquota che magari sceglierà l'IP, ma il grosso sarà sempre broadcast. Ben diversa sarà tutto quello che riguarda la parte entertainment, fiction, film, serial. Lì già c'è un primo esodo. Gli utenti di pay TV che non sono interessati al calcio, in questo momento in parte stanno abbandonando le piattaforme tradizionali perché con una frazione di quello che spendono si abbonano a Netflix piuttosto che a un servizio analogo, ma ne verranno fuori degli altri, quindi non ci sarà soltanto Netflix, e hanno un intrattenimento, certo magari non così ampio nella scelta, ma comunque molto importante, ce l'hanno on demand e non più con gli orari di messa in onda, malgrado tutti le possibilità di avere poi canali più 1, canale più 24, anche contenuti on demand sulle stesse piattaforme di pay TV tradizionali. Quindi al di là di questo fatto, la comodità, il prezzo, il fatto di poter iniziare il contenuto quando si vuole, interromperlo, andare avanti in qualsiasi momento, sarà vincente, e in questo l'IP lo fa meglio del satellite, del digitale terrestre. Il tema poi del digitale terrestre ha un ulteriore vincolo. La banda 700 entro il 2020, al più tardi 2022, dovrà essere ceduta. Dovranno essere soprattutto armonizzate le frequenze digitali terrestri italiane con quelle dei paesi limitrofi per evitare interferenze. Succede che noi dimezzeremo la nostra capacità trasmissiva tra il 2020 e il 2022, noi italiani. Vuol dire dover rinunciare a metà dei canali che vediamo. Ci sono molti canali ai quali rinunceremmo volentieri, cartomanti e televendite, onestamente, però non sarà così semplice, e anche la PTV, cioè Premium, che in questo momento è solo sul digitale terrestre, dovrà porsi per allora una grande scelta, quindi se rimanere lì con un numero di canali ancora più ridotto rispetto a quello di oggi, sicuramente, oppure se migrare per esempio su satellite, o magari saltare anche il satellite e passare direttamente all'IP, perché no? Incomincia a aprirsi anche questa possibile finestra. Ora, del 2020-2022 le utenze coperte da banda larga potrebbero essere sufficienti per gestire anche un bilancio di una PTV tradizionale, che ricordiamo deve pagare molti soldi per esempio per i diritti del calcio, e quindi deve avere un numero di abbonati necessariamente molto alto. Oggi non sarebbe possibile, fra 3, 4, 5 anni forse sì. Beh, a proposito di contenuti, proprio alla fine della settimana TIM ha annunciato di aver deciso di trasformare TIM Vision in una società a sé specializzata nella produzione di contenuti premium per la banda ultra larga. Quindi ovviamente ci si rende conto che i contenuti sono importanti e sono un aspetto molto importante di questa partita, e quindi bisogna specializzarsi nella produzione, nell'aggregazione, nella scelta dei contenuti per i consumatori. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Parleremo nel corso della nostra puntata anche di roaming, c'è una nuova puntata questa settimana. Poi parleremo di chatbot, di intelligenza artificiale, di veicoli automatici, questo tra poco a 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con me è 2024, quindi 2024, @radio24.it. Vi ricordo che la versione podcast del nostro programma contiene tutte le interviste in versione integrale, l'unico programma di Radio 24 che vi offre questo servizio. Tutte le nostre interviste, cercando il più possibile di farle al microfono, ma questo non è sempre possibile, però almeno ve le offriamo in versione integrale, molto più lunghe rispetto a quelle che ascoltate alla radio. A proposito di app fatta bene, diceva poco fa Gianfranco Giardina, questo è un elemento importantissimo. Ci sono un sacco di servizi la cui competizione si sta spostando in buona parte sull'applicazione. Come è fatta l'applicazione? Magari un servizio è molto simile ad un altro, ma un'applicazione fatta male o comunque peggio del competitor, e vince chi ha l'applicazione fatta bene. Pochi giorni fa discutevo e parlavo molto piacevolmente con un tassista che aveva capito che il futuro sarà fatto di applicazioni e diceva: ah, non avevo pensato al fatto che un'applicazione rispetto ad un'altra si distingue proprio dalla usabilità. Quindi non basta fare l'applicazione, perché oggi molti dicono: ah, ma noi abbiamo l'app, bisogna vedere come è fatta quest'app. E un'altra cosa che forse pochi hanno capito è che sull'applicazione bisogna investire un sacco di risorse, tempo, persone competenti, perché non tutti sono in grado di fare un'app. Anche questo è un tema interessante, cioè sullo sviluppo di applicazioni, sulla qualità degli sviluppatori. In Italia abbiamo degli ottimi e bravissimi sviluppatori, ma bisogna poi andare a scegliere quelli giusti. Parlando di taxi, molto probabilmente nel giro di pochi anni ci saranno solamente applicazioni sullo smartphone per chiamare il tassista, prima di arrivare all'auto a guida autonoma. Quindi non so se nel futuro ci saranno ancora i radio taxi così come li conosciamo oggi. E sempre rimanendo in questo ambito, una delle notizie della settimana è che Uber ha iniziato a fare girare veicoli a guida autonoma a San Francisco per trasportare i propri clienti, ma le autorità californiane ne hanno vietato l'uso perché Uber non ha l'apposito permesso per auto a guida autonoma. Quindi il problema è solo quello: non hai la licenza. Allora, la società dice: non ne abbiamo bisogno, visto che dietro al volante c'è ancora oggi sempre una persona pronta a prendere i comandi. Allora, l'obiettivo di Uber è diventare un player importante nel trasporto di persone e merci con veicoli automatici, quindi in prospettiva tra 10, 15, 20 anni. E a proposito di quello che sta succedendo in California, lo Stato della California ha concesso permessi a una ventina di società che hanno un parco auto di 130 veicoli a guida autonoma. Il permesso annuale costa $150, quindi veramente molto poco. Le autorità in cambio chiedono anche alcuni dati importanti per fare delle statistiche, per capire poi come magari in futuro legiferare su questo nuovo mondo. Allora, l'arrivo delle auto a guida autonoma avrà un impatto anche sul car sharing. Secondo molti studi, l'ultimo che ho letto di Frost & Sullivan, l'uso di auto condivise diventerà sempre più comune nelle città, quindi si ridurranno le auto di proprietà. Del resto, se uno vede il successo clamoroso del car sharing a Milano, dove ci sono più di 2000 veicoli di car sharing, può capire che cosa ci riserva il futuro. Sicuramente Milano è un ottimo esempio del successo del car sharing. Lo ricordo per chi non lo sapesse: con lo smartphone uno fa tutto, prenota l'automobile che trova nelle vicinanze, apre il veicolo e paga attraverso l'applicazione, attraverso carta di credito o qualsiasi altro genere di strumento di pagamento disponibile. Dunque, però, pensate: se un'auto può guidare da sola, il gestore della flotta di veicoli di car sharing può riposizionare le auto in base alla domanda di mobilità. Se ad una certa ora, in una certa zona, si sa che alle 7 del mattino molte persone cercano automobili in car sharing, le auto si riposizionano automaticamente dove serve. Oggi questo già viene fatto, però ci sono delle squadre di persone, degli uomini, che vanno a prendere le automobili da alcune zone, magari si sono accumulate automobili in una certa zona, e le riportano in altre zone. Qui attorno al Sole 24 Ore vediamo che alla sera tardi o durante le prime ore della notte ci sono persone che portano le auto a guida autonoma, le auto del car sharing. Evidentemente qui c'è richiesta di veicoli alla mattina. A proposito di auto che si guidano da sole, Google ha annunciato che nascerà una nuova società chiamata Waymo, che svilupperà la tecnologia di guida autonoma per venderla e applicarla al car sharing, ai camion, ai trasporti pubblici e anche alle vetture private, stringendo accordi con produttori di automobili. Questo ha fatto sì che molti abbiano dedotto che Google non produrrà automobili a guida autonoma, ma svilupperà solo il software. L'auto a guida autonoma è forse l'esempio più facile da raccontare di applicazione di sensori, di connettività, di intelligenza artificiale, ed è anche uno dei mega trend del momento e dei prossimi anni. Allora, purtroppo però c'è ancora poca consapevolezza su cosa è possibile fare già oggi con l'intelligenza artificiale e soprattutto su quello che si potrà fare nei prossimi anni e di quanti posti di lavoro verranno cancellati purtroppo. Allora, prendiamo il caso molto semplice e per alcuni potrebbe essere marginale, poco importante, dei chatbot, cioè i software che ci rispondono in chat tentando di farci credere che dall'altra parte ci sia un umano che risponde alle nostre domande. Ci sono già servizi, che ne so, compagnie aeree che hanno sperimentato dei chatbot per rispondere alle domande dei passeggeri. Allora, oggi siamo ai primi passi, ma nel giro di pochi anni c'è chi sostiene che non ci accorgeremo di stare dialogando con una macchina. Ora parliamo di un progetto, prendiamo spunto da questo progetto che è stato premiato questa settimana a SMAU Napoli, realizzato per il comune siciliano di Solarino, un piccolo comune, parliamo di 8.000 abitanti circa, per dare informazioni ai cittadini su varie cose, tra cui la raccolta differenziata, quindi anche una serie di informazioni, se vogliamo, abbastanza semplici, ma la cosa importante è capire l'evoluzione di questi sistemi. Stefano Mancuso è il responsabile della nuova divisione Next di Accelero, che è una società che, tra le altre cose, realizza anche questi servizi che chiamiamo chatbot. È una soluzione chatbot che è stata implementata al Comune di Solarino per dare informazioni in merito a quelli che sono la richiesta di documenti prima della raccolta differenziata e quello che riguarda la possibilità di avere informazioni generiche sugli uffici, orari di apertura, chiusura e dove sono ubicati e dislocati gli uffici. Allora, ti faccio spiegare che cos'è un chatbot, perché molti dei nostri ascoltatori avranno sicuramente sentito nominare questa parola. La chat, tutti sanno che cos'è, Facebook, Telegram, insomma ci sono tantissime chat, Messenger di Facebook, WhatsApp, bla bla bla, eccetera eccetera. Chatbot che cos'è? È un sistema, una tecnologia che consente in maniera automatica, tramite i canali che lei ha appena citato, di fruire informazioni non attraverso l'introduzione e l'utilizzo di un essere umano, bensì un sistema automatizzato, che è proprio un sistema che si definisce chatbot, sì, o bot nelle sue estensioni più alta, che consente appunto di fornire informazioni al posto di un essere umano. Quindi, certo, quindi immaginiamo di essere davanti a una chiacchierata su WhatsApp e dall'altra parte ci risponde non un nostro amico, il nostro parente, ma una macchina. Quindi... Sì, è una macchina che viene ovviamente adeguatamente addestrata da un essere umano e che funge da sistema di assistenza, nel caso del comune l'applicazione è appunto fornire servizi al cittadino e rendere più semplice l'accesso a delle informazioni. Quello che abbiamo fatto è stato implementare appunto su questo servizio, su questo impianto pilota, la sfida per noi è stata quella di utilizzare un sistema innovativo nell'ambito dei chatbot che ci ha consentito appunto sulla raccolta differenziata di dare un'assistenza che fosse quanto più simile possibile ad un'interazione umana. Quindi, fammi un esempio di che tipo di domande io posso fare. Allora, le soluzioni comunemente, quelle che definiamo standard, che da un po' di mesi sono nate proprio per cavalcare quello che è il momento di esplosione di questa tecnologia, possono essere addestrate, quindi possono essere programmate per essere utilizzate utilizzando il sistema degli esempi. Quindi questi sistemi devono acquisire una serie di esempi, quindi per la raccolta differenziata immaginiamo che ci sono tantissimi e tantissimi casi, no? Che sono quelli che poi di solito troviamo nel PDF, nell'Excel che può essere scaricato dal sito della pubblica amministrazione del comune. Ci sarebbero da produrre tantissimi esempi che vadano a coprire tutti gli oggetti, combinazione tra di essi e anche le varie modalità con cui un essere umano pone queste domande. Certo, quindi alla domanda che io umano faccio alla macchina, la macchina va a cercare l'esempio che nel database, che nell'archivio vicino, che è più vicino. Che è più vicino. Quindi immaginiamo, facciamo un caso specifico, i piatti di plastica, le forchette di plastica. Io dovrei addestrare la macchina su un sistema standard inserendo il concetto di piatto di plastica, forchetta di plastica, cucchiaio di plastica, bicchiere di plastica, quindi, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, per ogni con varie modalità, declinazione di domande. Questo ovviamente è facilmente comprensibile che genererebbe un tempo di addestramento molto lungo. Certo, anche una quantità di informazioni molto elevate. Voi che cosa avete fatto invece? Noi abbiamo invece introdotto una nuova tecnologia che consente di addestrare questa piattaforma, la piattaforma quindi che consente di dare informazioni non per esempi, bensì per concetti, quindi come ragiona fondamentalmente il cervello umano. E questo ha un vantaggio in termini proprio di tempi di addestramento del sistema e anche una maggiore efficienza, perché riusciamo a coprire anche tutte quelle casistiche per cui in una soluzione tradizionale potrebbe non esserci una risposta, perché il sistema non riesce a fare un match tra la domanda che sta ricevendo e quella invece che ha all'interno del DB. Nel nostro caso invece, ragionando per concetti, non deve esserci necessariamente un match, un'equivalenza tra quel tipo di domanda, perché quello che fa il sistema traduce la domanda in concetto, come fa il cervello umano. Tu pensi che questa tecnologia, come alcuni ritengono, diventerà uno standard, cioè le chatbot saranno una sorta del call center di domani? Possono essere sicuramente un valido ausilio a quello che è l'utilizzo standard che ognuno di noi fa dei call center. Basti pensare per esempio che sistemi del genere potrebbero consentire di assolvere almeno un primo livello di assistenza, potrebbero assolvere a un sistema di assistenza multilingua, cosa che spesso invece non è possibile fare, soprattutto dare informazioni H24, quindi già questo sarebbe un grosso vantaggio. Altre evoluzioni delle chatbot che ti puoi immaginare, che ci si sta immaginando? Fondamentalmente le chatbot possono essere collegate a qualsiasi sorgente di dati. Quindi noi adesso le stiamo, in questo ambito specifico, le stiamo vedendo legate a delle informazioni al servizio del cittadino, ma possono essere applicate a qualsiasi altra fonte utilizzo, quindi in ambito customer service per le aziende, in ambito medico per dare delle informazioni relativamente alle prenotazioni. Cioè sono fondamentalmente un mezzo, diventa un mezzo di comunicazione che va a sostituire l'interazione con quello che spesso è un operatore. Dunque, una cosa importante da sapere è che oggi ci sono due trend di questo nascente settore delle chatbot. Siamo solo agli inizi, insomma, se le avete provate capite che danno delle risposte abbastanza elementari, però nel giro di poco tempo vedrete che le cose miglioreranno molto velocemente. Stiamo parlando di cose parenti degli assistenti virtuali che abbiamo sullo smartphone, quelle cose lì. Allora, dicevo, ci sono due trend. Uno è insegnare alle macchine con degli esempi, cioè a queste domande, a questo tipo di domande sono state date questo tipo di risposte. Se uno ha molti casi, quindi tanti esempi, beh, la macchina capisce, però è un sistema un po' come si fa con il pappagallo. Il pappagallo non capisce, però se tu gli insegni tanti casi, lui alla domanda specifica trova la risposta perché l'ha sentita, la impara. Insomma, la macchina fa più o meno questa cosa. L'altro modo, che è un po' il modo del futuro, è usare sistemi intelligenti in modo che la macchina capisca veramente che cosa abbiamo domandato alla macchina e dia delle risposte sensate, anche se magari non ha proprio quell'esempio specifico, ma la macchina capisce ed elabora, che è un po' la cosa che ci diceva poco fa Stefano Mancuso. Tra poco parleremo di roaming, di extra costi di roaming. Adesso parliamo di Internet of Things, della Internet degli oggetti. Devo dire che in questo momento vedo tantissimi che si stanno buttando in questo settore, perché c'è anche l'altro mega trend della fabbrica 4.0, e quindi uno pensa che mettendo un po' di sensoristica qua e là, mettendo un po' di intelligenza, si raccolgono delle informazioni, poi il problema è come elaborare queste informazioni, ma si faccia innovazione, si faccia fabbrica 4.0. La cosa è molto più complessa, è estremamente complessa, e devo dire che una delle complessità che noto che gli imprenditori si trovano di fronte e che ci sono veramente tantissimi player, visto che la tecnologia è a basso costo sostanzialmente, e buona parte del problema è legato all'intelligenza umana che deve poi mettere a fattor comune, mettere insieme queste tecnologie, beh, molti si sono buttati su queste soluzioni. Tutti fanno Internet of Things, tutti fanno soluzioni per la fabbrica intelligente. Quindi un'altra delle difficoltà degli imprenditori, oltre che capire come trasformare i propri processi per diventare 4.0, un altro dei problemi è capire qual è l'interlocutore giusto, qual è l'offerta giusta, le persone con cui parlare, perché adesso tutti sono diventati esperti di Internet of Things. Detto questo, un esempio di quello che si può fare, non tanto nella fabbrica, ma in giro per le strade, ne ho parlato con Francesco Serino, che è fondatore di Nexus TLC, che ho incontrato a Napoli, a SMAU Napoli. La campagna forse è più nota per altre cose, ma racchiude e ha tantissima tecnologia, tantissime persone competenti, molti sviluppatori, grandi università, centri di ricerca e anche molte grandi aziende che si occupano di tecnologia. Forse l'esempio più noto a livello nazionale e internazionale è l'aerospazio, ma non solo. Comunque, detto questo, sicuramente la tappa di SMAU a Napoli è stata una tappa importante, ho fatto molte chiacchiere con tante persone e vorrei farvi un esempio giusto per far capire come la fantasia e la tecnologia si possano combinare assieme. Francesco Serino, fondatore di Nexus TLC, ci racconta che cosa propongono al mercato. Allora, SafeUnderpass è una piattaforma che serve per monitorare se un sottopasso si sta allagando oppure no. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se gli automobilisti passano all'interno di un sottopasso che diciamo è in difficoltà, quindi c'è dell'acqua stantia e il livello dell'acqua continua a crescere, diciamo, vengono allertati prima che attraverso il sottopasso possano succedere dei problemi, che il sottopasso si sta allagando, e il nostro sistema permette tramite una pompa di immersione di drenare l'acqua in eccesso. Nel caso in cui non è necessario l'intervento della pompa per drenare l'acqua, viene completamente chiuso il sottopasso, quindi non è più, viene interrotto il transito agli automobilisti. Tramite un semaforo segnaliamo lo stato di allerta e, cosa fondamentale, ci riallacciamo all'internet degli oggetti. Questo sottopasso comunica in remoto ad un centro di gestione che, diciamo, c'è un problema, quindi che si è allagato in modo pericoloso e che è diventato un problema per gli automobilisti. Utilizziamo, diciamo, per la comunicazione la tecnologia LoRa Long Range. Esatto, ci arriviamo alla tecnologia, sì, che utilizzate, perché qui stiamo parlando di una soluzione all'interno dell'internet degli oggetti, della, sì, Internet of Things, con una serie di tecnologie e di sensori che potrebbero essere utilizzati per altre cose, possono essere combinati per altre cose. Ecco, che tipo di sensori utilizzate e che tipo di comunicazioni utilizzate, che sono anche un modo per distinguervi da altri tipi di tecnologie di comunicazione che oggi sono adottate? Sì. Allora, ad oggi utilizziamo un sensore ad ultrasuono con un beam abbastanza direttivo, in modo tale da prendere una porzione ben determinata del sottopasso per capire appunto se si sta allagando o meno, e la comunicazione avviene tramite la tecnologia LoRa Long Range. Raggiungiamo i 15 km line of sight, linea d'aria, e ad oggi, diciamo, si stanno diffondendo delle zone lorizzate, ovvero dei gateway che coprono 15 km di raggio, e nell'ottica smart city questo diventa importante, perché all'interno di una smart city possiamo avere una copertura sotto tecnologia LoRa e quindi poter integrare non solo un underpass ma qualsiasi altra tecnologia degli oggetti legata al discorso smart city, e quindi, diciamo, in questo modo riusciamo a rendere le nostre città più smart, ma a rendere anche il cittadino consapevole che sta vivendo in una città smart e di renderlo partecipe di questo cambiamento, insomma. Gli operatori di telecomunicazioni, gli operatori di telecomunicazione mobile in modo particolare, stanno spingendo verso le loro tecnologie, quindi dicono, visto che la telefonia mobile copre se non tutto il territorio, comunque buona parte del territorio, utilizzate, care pubbliche amministrazioni, care aziende, le nostre tecnologie, quindi andate su l'evoluzione del 4G e in futuro del 5G. Questa tecnologia long range, quindi a lunga distanza, va su altre frequenze. Quali sono, a vostro avviso, i vantaggi? Allora, sicuramente qui possiamo creare una rete privata di sensori, quindi una rete wireless di sensori all'interno di una determinata area è un qualcosa di privato. Con il narrowband IoT, con gli operatori, quindi sul 4G, 5G, sicuramente andiamo su una rete che è comunque quella della telefonia. Ovviamente utilizziamo, viene utilizzata la rete dati come utilizziamo oggi sui nostri smartphone, però comunque ha bisogno di una SIM all'interno, diciamo, per il narrowband IoT, e che è ovviamente legata a un operatore telefonico. Il nostro, diciamo, la nostra ottica è quella di essere un po' più open, essere un po' più aperti, quindi poter creare delle reti proprie private senza avere l'appoggio di nessun operatore, e soprattutto, diciamo, il narrowband IoT funziona dove c'è copertura di rete GSM, rete UMTS, insomma LTE, rete dati, mentre invece la nostra soluzione potrebbe la tecnologia LoRa può funzionare dovunque, quindi anche dove non c'è basta copertura. Basta mettere le antenne, sì, però è molto più semplice l'installazione di un gateway LoRa che ci copre 15 km di raggio line of sight, immaginiamo alle zone rurali, piuttosto che a mettere una BTS di un operatore che dà connettività LTE, per esempio, ad un'area agricola dove non c'è interesse forse neanche da parte dell'operatore. Quindi magari sarebbe utile integrare le due cose, cioè avere una rete privata di sensori e il nodo d'uscita verso l'internet possa essere ad esempio un collegamento in LTE. Quindi vedrei più l'unione delle due cose e non, diciamo, la vittoria di una singola tecnologia. Quindi non è una competizione, come tu dici. No. Ecco, però noto che proprio perché sta esplodendo la internet degli oggetti e tutti si stanno buttando sulla internet degli oggetti, c'è una sorta di, se non la vogliamo chiamare competizione, comunque anche in questo caso direi esplosione di reti per trasportare i dati di vario genere. Sì, diciamo, come LoRa c'è anche Sigfox, ad esempio, che è una tecnologia vicina all'ora per molti aspetti. Abbiamo il narrowband IoT, lo stesso wifi casalingo. Sì, in effetti sì, il mercato è molto aperto, molto libero, non c'è ancora una tecnologia ben definita, perché sappiamo cosa vogliamo ma forse non come ottenerlo, quindi c'è tanto spazio per i produttori di nuove tecnologie, e vediamo insomma nel futuro cosa ci riserva. Sicuramente si sta spostando attenzione sulle applicazioni e sui servizi, piuttosto, cioè riusciamo a standardizzare l'applicazione, il servizio, la piattaforma da utilizzare, forse quello sì, piuttosto che diciamo, la tecnologia da utilizzare, soprattutto per la trasmissione dei dati wireless, in modo wireless. Sempre pensando alla internet degli oggetti, ovviamente la tecnologia è disponibile, a questo punto basta usare la fantasia, si possono fare mille cose. Che cos'altro avete realizzato? Sì, noi abbiamo realizzato per un'azienda che si chiama Atlas Carl, è un'azienda che lavora in Italia nel campo del facility management, abbiamo realizzato una piattaforma che si chiama Smart Clean Platform, e in pratica tramite l'utilizzo di attuatori e sensori, quindi ritorniamo all'internet degli oggetti, riusciamo a capire lo stato delle pulizie, del cleaning in tempo reale sui cantieri in cui l'azienda lavora. Faccio un esempio, ad esempio nei bagni sulle catene di produzione, noi abbiamo realizzato degli oggetti che contano il passaggio delle persone all'interno di un bagno, di una toilette. Questo cosa ci permette? Ci permette di andare a effettuare una pulizia mirata e quindi un'elevata qualità del servizio nei confronti del cliente, una migliore organizzazione aziendale, soprattutto dei dipendenti, dei lavoratori. Quindi avete creato un sistema che avvisa l'operatore, esatto, che ad esempio, data una prima fase di training per capire il numero ad esempio di persone, dopo quante persone bisogna appunto andare a effettuare una pulizia, noi diciamo impostiamo una soglia. Superata quella soglia viene avvertito l'operatore, che in quel momento è, diciamo, responsabile delle operazioni di pulizia di facility, che è il caso di andare a pulire quel intervenire bagno. Esatto, cioè di intervenire. Quindi è migliorata la qualità e l'efficienza nei confronti del cliente, dell'azienda stessa. Abbiamo ottimizzato l'utilizzo del personale, quindi dei dipendenti, e non solo, abbiamo anche creato degli oggetti che ci avvisano se il sapone, ad esempio, le salviette all'interno sempre dello stesso bagno stanno per terminare o stanno terminando, quindi non troveremo mai più bagni senza sapone, senza salviettine e bagni sporchi, perché si può intervenire in modo mirato, in modo concreto, l'azienda può ottimizzare risorse e offrire migliore qualità del servizio al proprio cliente. Immagino che l'evoluzione di questa cosa siano sensori che non solo ti dicono quante persone sono andate, ma che controllano magari visivamente o in un altro modo, esatto, sì, se un bagno è sporco o pulito, perché magari arriva il secondo che è un maleducato e lo sporca subito. Sì, diciamo, È così perché stiamo lavorando sul visual recognition, proprio uno dei progetti che abbiamo in cantiere, quindi il riconoscimento dell'immagine per capire appunto lo stato non solo del clinic ma a quel punto anche delle catene di produzione, ad esempio se un oggetto, un prodotto è uscito così come richiesto oppure no, quindi con il visual recognition ci stiamo spingendo oltre quello che può essere l'utilizzo di sensori attuatori. Prima di parlare di roaming, una delle notizie di questa settimana che si lega a quello che raccontavamo prima, l'intelligenza artificiale. Allora, il nuovo servizio Microsoft Traduttore è stato migliorato e da questa settimana è possibile fare partecipare ad una chat fino a 100 persone che parlano in 9 lingue diverse. Allora, ripeto perché effettivamente è strabiliante. Allora, è possibile far partecipare contemporaneamente ad una chat fino a 100 persone che parlano in 9 lingue diverse. Ognuno parla nella propria lingua e riceve una traduzione scritta nella propria lingua, mentre l'interlocutore parla nella sua. Che è sorprendente. Allora, io ho fatto una prova con Marta Cagnola, che parla un ottimo francese, ed effettivamente la traduzione è accettabile. Certo, eravamo in due, bisognerebbe fare la prova con più persone e più lingue, però anche in questo caso, insomma, un trend per capire che cosa succederà nel futuro. E un mio collega ovviamente diceva: ma che cosa faranno i traduttori nei prossimi anni? Parliamo di roaming, delle novità di questa settimana. Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea nell'ambito delle TLC, bentornato a 2024, ciao. Grazie. Qual è la novità di questa settimana, qual è il tassello ulteriore che è stato posto e quali sono i principali problemi che a questo punto devono ancora invece essere risolti da qui a giugno 2017? Quindi ci sono ancora alcuni mesi, ma sappiamo insomma che i tempi europei sono abbastanza lunghi, quindi diciamo che poi non c'è tutto questo tempo. Ma partiamo dalla novità di questa settimana. Questa settimana la Commissione europea ha approvato, dopo consultazione con gli Stati membri, un regolamento che specifica entro che limiti effettivamente i cittadini europei che viaggiano all'estero potranno evitare l'applicazione dei sovraccosti roaming. Questo perché la regola generale è che chi viaggia all'estero appunto debba continuare a pagare la tariffa domestica, come quindi se non senza nessun impatto, diciamo, per il fatto di essere in un altro paese. Però questa regola è in qualche modo calmerata dall'esigenza che si tratti di un viaggiatore. Se invece il cittadino europeo effettivamente si trova all'estero in maniera stabile, quindi non solo per un viaggio temporaneo, a quel punto dovrebbe munirsi di una SIM locale, altrimenti il regolamento prevede che ricomincerà a dover pagare i sovraccosti roaming. Qual è questo limite? Dunque, il limite è abbastanza complesso da capire, perché stiamo parlando di sistemi tariffari abbastanza complicati. Diciamo che gli operatori mobili, sulla base di alcuni criteri sia della Commissione, lo comunicheranno ai loro utenti. E volendo un po' semplificare, qualora si tratti di una, ad esempio, di una prepagata a consumo, ad esempio di 20 euro, e il viaggiatore si trovi all'estero con un credito residuo di 10 euro, potrà continuare a usufruire di questa tariffa di 10 euro sulla base di una formula che si collega al costo con cui l'operatore di provenienza, al costo che deve essere pagato alla rete estera presso il quale il servizio roaming viene fornito. E poi vi sarà anche una formula simile per le offerte cosiddette flat, cioè quelle per cui io ho non ho limiti al consumo. Anche lì comunque ci sarà una formula che permetterà di continuare a usufruire all'estero senza sovraccosti dell'accesso internet, ma dopo un certo ammontare si riapplicheranno i sovraccosti i sovraccosti roaming. Questi limiti sono dovuti a una ragione, cioè che gli operatori nazionali, quando hanno i loro clienti viaggiatori all'estero, devono comunque pagare un accesso alle reti estere. Questo accesso è normalmente molto elevato rispetto al costo nazionale. Per fare un esempio, ci sono operatori che permettono in Italia di usufruire a tariffe domestiche di un giga internet per 1 euro. Lo stesso giga all'estero in roaming può costare 10 euro, quindi sarebbe impossibile replicare all'estero, questo tipo di tariffa. In verità, la Commissione europea, e le varie istituzioni stanno cercando di abbassare per via di regolamentazione questi costi all'ingrosso di accesso alle reti all'estero. Però vi è ancora una forte, diciamo, livello di litigiosità per arrivare a un accordo su queste tariffe. E quindi finché queste tariffe all'ingrosso rimarranno elevate, sarà necessario porre dei limiti alla fine del roaming in Europa. Quindi già da queste parole, da tutta questa spiegazione sicuramente non semplice, stiamo capendo che il famoso annuncio che ci sarà l'abolizione totale del roaming non è vero, non ci sarà un'abolizione totale degli extra costi di roaming, ma ci saranno tutta una serie di vincoli che tra l'altro saranno anche complicati da comprendere. Questo è uno dei problemi. Quale effetto collaterale potrebbe avere questa quasi abolizione del roaming? Allora, un problema sarà quello di un aumento delle tariffe domestiche, proprio perché non è sostenibile per un operatore fornire all'estero internet ai stessi prezzi con cui lo si fornisce in Italia, ad esempio. Per poter equilibrare questa offerta senza sovraccosti roaming, bisognerà aumentare le tariffe domestiche. Questa è una possibilità. Per alcuni operatori particolarmente in difficoltà potranno addirittura diciamo smettere di dare internet illimitato, ma metteranno dei limiti nazionali. Qualcuno potrebbe chiedere anche un'eccezione al proprio regolatore, e ricominciare ad applicare i sovraccosti roaming qualora, non riesca a coprire costi. Può sembrare una situazione complicata, però in primo luogo forse bisognerebbe tranquillizzare le persone dicendo: in verità, quando parliamo di brevi viaggi all'estero a livello turistico, quindi in maniera temporanea, non ci saranno problemi. Il roaming effettivamente terminerà, i sovraccosti roaming. Il problema si pone perché vi possono essere degli utilizzi abusivi o anomali di queste SIM card portate all'estero, perché uno potrebbe, non so, tornando da Malta o da Cipro dopo una vacanza, dopo ha preso una SIM, continuare a utilizzare in Italia la SIM card di quel paese. Ora, quella SIM sarebbe il roaming, ma l'operatore maltese o cipriota non potrebbe permettersi di pagare l'accesso alla rete italiana per 3-4 mesi l'anno, perché ha un costo molto superiore rispetto al costo che si ha a Cipro e Malta. Quindi tutti questi limiti di cui parliamo tentano in qualche modo di limitare questi usi abusivi. Per questo gli operatori potranno anche fare controlli ai detentori delle proprie SIM su dove risiedano effettivamente. Senti, ti faccio una domanda di mercato. Ovviamente, verranno stabiliti, c'è già una trattativa in corso tra gli stati per stabilire, questi costi all'ingrosso, ma il mercato può fare la propria parte, quindi gli operatori potranno accordarsi su quanto fanno pagare. Tipicamente parliamo di traffico dati, perché mi sembra di capire che il problema sta soprattutto sul traffico dati più che sulla voce, che ormai è un costo quasi azzerato, quindi il problema non è lì. Gli operatori potranno fare accordi. Ovviamente saranno più facili accordi tra grandi operatori. Ovviamente gli operatori paneuropei, penso ad esempio a Vodafone, che è l'unico che ha operazioni in tanti paesi europei, saranno da questo punto di vista agevolati, ma attendere la prospettiva potrebbe essere quella di vedere sempre più in difficoltà i piccoli operatori e quindi avere in futuro solo grandi operatori e ancor più operatori europei, e quindi magari aziende che comprano altre aziende diventano veramente grandi, molto più grandi rispetto a quelli che conosciamo oggi. Sì, ci può essere da un lato questo sviluppo del consolidamento tra operatori, che è una questione di mercato, però l'altra conseguenza è quella della difficoltà per i piccoli operatori, è seria, anche perché i piccoli operatori sono spesso quelli che fanno offerte più innovative a costi più bassi, quindi sono quelli che rendono il mercato competitivo e che si rivolgono a una larga parte della clientela che appunto vuole servizi a prezzi molto economici. Quindi la scomparsa di questi operatori avrebbe conseguenze deleterie per il mercato, perché farebbe diminuire la concorrenza e i grandi operatori alzerebbero i prezzi. Questo sta già avvenendo, perché in Italia abbiamo visto che alcuni grandi operatori hanno cominciato a chiedere il pagamento per servizi che prima erano gratuiti. Quindi c'è una tendenza surrettizia ad aumentare i prezzi e quindi la scomparsa dei piccoli operatori sarebbe, diciamo, un colpo ulteriore alla concorrenza. Innocenzo, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. L'indirizzo che potete utilizzare per raggiungermi è 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Facebook e Twitter, però è più difficile che riceviate una risposta. Come sempre ringrazio anche tutte le persone che ci scrivono, che mi scrivono e mi dicono come ascoltate 2024. Potremmo lanciare anche una nuova domanda: se tra i nostri ascoltatori c'è chi ascolta non tanto 2024 ma anche la radio in generale, le altre radio in generale, in digital radio con il DAB. Recentemente una persona su Twitter diceva: sono andato a cominciare la trattativa per acquistare la nuova automobile e la prima domanda che ho fatto al concessionario è stata: ma ha il DAB, la radio digitale? Il concessionario ha detto sì, e allora lui giustamente ha detto: vabbè, possiamo continuare. E io dico sempre: se non c'è la radio DAB, lasciate l'auto lì, oppure se è un optional, fatevelo regalare, perché in molti casi stiamo parlando di insomma una cifra modica, e comunque secondo me ormai le radio devono avere anche questo optional, che non dovrebbe essere più un optional ma di serie. Come, fatevelo regalare, dite che ho detto io, e se vogliono li chiamo e li convinco. Ci risentiamo la prossima settimana.